Italia in controluce. Buon pomeriggio, oggi è il 3 giugno, Italia in controluce, vi parla Daniele Biacchessi. Stiamo in queste ore lavorando numerose inchieste, molti reportage, approfondimenti, interviste. Ad esempio lunedì 6 giugno 6:30 Raffaella Calanda vi racconterà uno spettacolo del filosofo Giulio Giorello dedicato all'udito. Sempre il 6 giugno alle 13:30 abbiamo pronto un reportage di Cristina Carpinelli sui referendum sulla privatizzazione dell'acqua pubblica. Stessa cosa stiamo realizzando per spiegare i referendum sul nucleare e quello sul legittimo impedimento. Intanto Jacopo Matano sta intervistando tutti i sindaci delle città più importanti usciti vittoriosi ai recenti ballottaggi. Come ogni venerdì a quest'ora cedo la linea a Piera Ceci per Scuola in Controluce. Scuola in Controluce. Ricordate il progetto del ministro della pubblica istruzione Gelmini per valutare gli insegnanti e dare un riconoscimento economico ai più bravi? Qualche mese fa suscitò moltissime polemiche e molte scuole dissero di no alla sperimentazione. Fra quelle che invece dissero sì, l'istituto comprensivo Gabelli di Napoli, che ha scelto i suoi 11 migliori insegnanti, che saranno dunque i primi a ricevere il premio economico. Gaetano Raiola è il preside della Gabelli e ci racconta come ha funzionato la sperimentazione. Sono stati valutati da tre documenti, da tre strumenti. Uno strumento di autovalutazione che era predisposto dalla piattaforma proprio del Ministero. Poi un altro documento che è il curriculum formato Europass, che ce l'hanno consegnato a tutti e tre i componenti del comitato di valutazione, e un'altra gamba della valutazione riguarda il parere che i genitori convocati, noi abbiamo convocato i genitori dell'infanzia, i genitori della primaria, i genitori della secondaria di primo grado, perché siamo un istituto comprensivo, per esprimere un parere su una scheda predisposta sempre dal Ministero sui tutti gli insegnanti che conoscevano, indipendentemente se erano docenti delle loro classi o meno. E quindi con somma meraviglia da parte dei genitori, anche perché siamo nel quartiere proprio al centro di Napoli, vicino alla ferrovia, quindi un ambiente misto, si sono visti interpellati per esprimere un parere non solo sui nomi, ma anche sul perché sceglievano questi professori, indipendentemente dal conoscere se partecipavano o meno al progetto. E questo poi mi sembra importante, perché insomma sì, anche i genitori vengono chiamati a partecipare insomma alla vita della scuola, però poi quando provano o semplicemente chiedono di poter dare un giudizio vengono sempre visti come un po' impiccioni, no? Dalla scuola. Certo. E invece insomma anche i genitori sono una parte importante, no? Sono i fruitori indiretti del servizio. I fruitori diretti sono i nostri studenti, i fruitori indiretti sono le famiglie, e ovviamente hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione, ma anche il dovere di partecipare. Senta, cosa hanno di speciale questi 11 insegnanti che sono stati scelti? Innanzitutto questi 11 insegnanti hanno di speciale le stesse qualità che hanno tutti i candidati che si sono offerti spontaneamente, sono uguali. Perché sono ovviamente tutti, insomma, gli insegnanti fannulloni, perché lo sappiamo che da qualche parte qualcuno c'è, non si sono di certo presentati. Io devo dire la verità, non la presenza o meno dei docenti nella mia scuola, di cui mi sento di parlare perché la conosco a fondo, non c'è nessun insegnante fannullone. Coloro che non si sono candidati per presentare l'hanno fatto per un motivo solo ideologico, di non condividere questo progetto di sperimentazione, ma non per timore o perché sono fannulloni. Ecco, quindi lei dice non hanno caratteristiche così speciali, però insomma nei loro curricula ci sono anche degli elementi caratterizzanti, non so, per esempio la professoressa Iorio ha insegnato nelle carceri minorili, Nisida, Filangeri, insomma non tutte hanno la forza, il coraggio, il tempo, la voglia di fare esperienze di questo genere. C'è un'altra collega, la signora Cesarano, che per esempio so che ha lavorato tanto anche con i ragazzini stranieri per aiutarli ad inserirsi, a imparare la lingua. Insomma, questo lavoro non è soltanto, no, le 4-5 ore di scuola al giorno, ma è anche bravissimo. E questa è stata un'altra caratteristica in più che noi abbiamo dovuto tenere conto, però seguendo non gli schemi del Ministero, ma seguendo l'approccio reputazionale. Noi solo all'interno, la professoressa Cesarano nello specifico, è una funzione strumentale che aiuta i non italiani, quindi non solo cinesi, anche di altre nazionalità, di cui la mia scuola c'è una congrua presenza, a poter sviluppare il codice linguistico italiano, però dalla visione dello straniero, non dalla visione dell'italiano, quindi è uno studio un po' più basato sulla comunicazione corporea, sulla comunicazione espressiva e meno sulla sintassi e sulla grammatica. Quindi noi all'interno, i tre valutatori, sappiamo di queste caratteristiche e seguendo l'approccio reputazionale l'abbiamo reputata eccellente. E allora sentiamo anche lei, l'insegnante eccellente scelta alla Gabelli di Napoli come una delle 11 che riceveranno il premio economico del Ministero dell'Istruzione, perché brava. Sentiamo che idea si è fatta Livia Cesarano, insegnante di italiano da 25 anni circa, dei motivi che hanno portato a far cadere su di lei la scelta. Probabilmente il rapporto con i ragazzi, il corso del tempo, c'è stata una serie di ragazzi che comunque poi sono rimasti in contatto con me. Perché? Lei che rapporto ha con questi ragazzi? Un rapporto speciale? Ma guardi, si crea sempre, vabbè, un po' perché l'insegnante di lettere forse perché ha più ore, un po' perché anche per carattere probabilmente, io sono una persona molto estroversa, quindi sarà anche questo che mi aiuta. Poi in realtà ognuno cerca di fare al meglio il suo lavoro, non esistono ricette. E questo di instaurare un rapporto speciale con i ragazzi è anche molto importante, è un'età delicata quella delle medie per i ragazzi. Sì, un'età delicata, e anche per questo io ho scelto di stare nelle medie, perché io all'epoca ho vinto anche il concorso per le superiori, però ho preferito questa fascia d'età. Perché? Mi piace lavorare con i ragazzi di questa età, trovo che siano ancora in qualche modo naturali, semplici, e hanno un approccio più diretto con la realtà. Anche lei, come altri colleghi della sua scuola, non avete avuto paura di sottoporvi comunque a una valutazione, a un giudizio che poteva non essere poi lusinghiero, come nel suo caso poi si è dimostrato. Perché lei non ha avuto paura di questo? Guardi, io penso che noi comunque ci mettiamo in gioco tutti i giorni, non, in realtà la valutazione nella scuola noi l'abbiamo sempre, perché avere a che fare appunto con ragazzi, con persone, in qualche modo ti mette nella condizione di essere giudicata, e allora perché puoi temere? No. Poi io sono sempre aperta alle novità, voglio dire, mi conoscevo, lo so che comunque vincere o non vincere non era l'importante, eh? Ognuno cerca di fare al meglio quello che sa fare. Ognuno cerca di fare al meglio quello che sa fare, dunque. La prof Cesarano, come la prof Fortuna Iorio, anche lei insegnante di italiano da oltre 30 anni. Sono una come le altre che si impegna, punto, che fa il suo dovere come tantissime altre che si impegnano in maniera seria e lavorano tra le varie difficoltà di quella che può essere la scuola italiana. Ovviamente questo riconoscimento economico non le cambierà la vita, però è importante, no, forse, no? Per la sua vita professionale, ma anche per una sua soddisfazione personale. Diciamoci la verità, allora sicuramente non ci cambia la vita, fermo restando che un po' di soldi fanno piacere a tutti, quindi saremmo fuori squadra nel dire che questo non è anche questa una positività. Ovviamente la prima positività è quella che c'è un riconoscimento a livello di colleghi, a livello di scuola. Moltissime scuole si sono rifiutate di far parte di questo progetto pilota, invece la sua scuola ha detto di sì e lei poi è stata anche scelta fra le migliori insegnanti da premiare. È la strada giusta secondo lei questa per rimotivare, anche per ridare motivazione a voi insegnanti? Allora, cara Simpla, chi può dire qual è la strada giusta indipendentemente da tutto? Come tutte le sperimentazioni ha bisogno di modifiche, di ulteriori aggiornamenti. Ovviamente può essere un punto di partenza, ci mancherebbe altro, ma non può essere la panacea come tutte le cose. Ecco, ma se lei volesse cambiare, potesse cambiare qualcosa di questa sperimentazione, visto che l'ha vissuta sulla sua pelle, anche se in positivo, cosa cambierebbe? Ma sicuramente forse dovrebbe essere più in itinere, dovrebbe coinvolgere più persone, dovrebbe avere cioè dovrebbe essere un poco più ampia, ecco. Questa è una questione molto importante, perché molti insegnanti invece dicono non dobbiamo essere valutati. Invece voi non avete avuto paura di essere valutati? Ma io credo che questa sia a prescindere, non è avere paura o non paura di essere valutati. Credo che il nostro lavoro a prescindere venga valutato tutti i giorni da quelli che sono i ragazzi che vivono con noi, che vanno via da questa scuola, che affrontano un altro mondo scolastico, il mondo del lavoro. Quella è una valutazione a monte. Credo che sia il percorso che ci accompagni, vogliamo o non vogliamo, da sempre. È giusto comunque che anche voi siate valutati, che c'è di male, insomma? Perché no? Italia in controluce, cercateci su Facebook, Twitter, comunicate con noi via mail controluceradio24.it. Torniamo lunedì 6 giugno 6:30 Radio 24.